Siamo in presidio davanti al rettorato in piazza Scaravilli, dove abbiamo aperto le tende. Oggi qua a Bologna, ieri hanno aperto le tende a Roma e in giornata vedremo aprire le tende anche in altri atenei d'Italia. A settembre, con la ripartenza dell'anno, abbiamo visto che nonostante le prime promesse vaghe fatte a maggio dell'anno scorso, quando l'attenzione mediatica si era alzata rispetto alla questione abitativa, non sono stati fatti nessun tipo di interventi strutturali rispetto a questa problematica, e quindi con la ripartenza dell'anno sono stati tantissimi gli studenti tagliati fuori dal mercato immobiliare, che lascia fuori tantissimi studenti, vuoi perché i numeri sono tanti e le case purtroppo ce ne sono troppe sfitte, e quelle poi alla fine messe sul mercato subiscono una speculazione, una bolla inflattiva devastante, tanti altri studenti rimangono fuori perché proprio non se lo possono permettere di pagare 500-600 euro una doppia o di più addirittura una singola. Voi sottolineate che anche le risorse stanziate dal PNRR riguardano la costruzione di studentati dove, come dire, c'è lo zampino dei privati. Il punto è che abbiamo visto che i fondi stanziati dal PNRR stanno defluendo tutti nelle mani dei privati per finanziare o studentati privati di lusso, che però non fanno altro che andare a rimarcare un mercato privato completamente non adatto alle nostre tasche, e comunque soldi che dovrebbero essere investiti nella costruzione di studentati pubblici o nell'ampliamento dei posti letto dentro gli studentati vengono costantemente fatti defluire nelle mani dei privati. Anche dentro l'università lo vediamo benissimo, con un sacco di finanziamenti rispetto a progetti guerrafondai. Pensiamo che ci sia la necessità di un'inversione proprio di flussi dei finanziamenti, invece che nelle mani dei privati, direttamente per la costruzione di studentati pubblici adatti alle fasce popolari, alle quali bisognerebbe assolutamente garantire il diritto allo studio. È per questo che infatti il nostro faro in questo momento è dire no all'abolizione della legge 431 del 98 fatta dal governo D'Alema, dove si è andata a sostituire l'equo canone, che garantiva un tetto massimo per tutti sulla base delle condizioni dell'alloggio, andandolo a sostituire con un canone concordato, dove di nuovo a fronte di un tetto che può pagare l'inquilino, i soldi che poi mancano da dare a chi affitta la casa vengono rimborsati direttamente dall'amministrazione o dalla regione, e vediamo di nuovo che altri soldi pubblici vengono fatti destinare ai privati che fanno speculazione sugli immobili. Questa è proprio la rappresentazione plastica di quello che sta succedendo, ed è per questo che siamo convinti che sia necessaria l'abolizione della 431. Voi chiedete anche un tavolo di confronto permanente e un reddito studentesco. Esattamente, c'è la necessità di un tavolo di confronto permanente, perché ormai queste decisioni vengono fatte con il pilota automatico e senza assolutamente prendere in considerazione ed ascoltare la voce di chi poi questa condizione specifica la vive sulla sua pelle. E il reddito studentesco, perché abbiamo visto, con la guerra c'è stato un aumento, un rincaro delle materie prime, delle bollette, del gas, c'è stato un rincaro di tutti i beni necessari e primari, c'è stata anche l'inflazione. Se ci sono i privati all'interno di tutti i nostri bandi dell'università e ci sono i privati sulle quali si fanno defluire tutti i finanziamenti pubblici, la presenza dei privati non la possiamo più accettare, e quindi finché esisteranno privati dentro i nostri bandi universitari, dentro i finanziamenti che dovrebbero essere pubblici, è necessario che i privati vengano tassati, ed è per questo ed è attraverso la tassazione che noi andremo appunto a rivendicare, a trovare il reddito studentesco per garantire non solo a chi se lo può permettere, ma per garantire un diritto allo studio che sia universale. Ecco, la protesta a Bologna sarà solo nella giornata di oggi o andrete avanti? No, siamo in presidio permanente, sicuramente rimarremo qua fino al 28 fino alle 6 di pomeriggio giovedì, dove faremo un'assemblea pubblica aperta a tutti per organizzarci insieme e parlare di una questione così tanto specifica, ma anche così tanto di vitale importanza per migliorare le condizioni di tutta una classe popolare che in questo momento sta facendo la fame, dal diritto all'abitare al diritto allo studio, sotto tanti punti di vista.